Strade e motori. Strade e motori. Di Massimo Di Scienza. Buon pomeriggio, buona domenica amici di Radio 24, ben ritrovati a un nuovo appuntamento di Strade e Motori. Oggi parecchi argomenti, si avvicina la bella stagione, dunque cercheremo di aiutarvi se avete voglia di cominciare ad immaginare il vostro viaggio per l'estate e se avete magari in mente di andare in Corsica o Sardegna. Ci sono novità anche per quanto riguarda il mondo della navigazione satellitare. Pensate, sono 10 anni che il GPS è stato sdoganato e viene utilizzato anche per gli usi civili. Approfondiremo anche questi argomenti. Parleremo anche di mercato, perché in corso della settimana ci sono state delle novità importanti e dei dati importanti sul mercato in Italia, ma non solo, ma partiamo subito parlando dell'Eco Top 10 di Legambiente. Anche quest'anno Legambiente ha pubblicato la sua Eco Top 10 e ce n'è una relativa proprio alle auto. Legambiente studia e premia le 10 vetture che meglio interpretano i principi ispiratori dell'associazione ambientalista, una sorta anche di vademecum per l'acquisto dell'auto più verde. E noi ne parliamo collegandoci con Andrea Poggio, vice direttore generale di Legambiente. Buona domenica Andrea, grazie per averci raggiunto. Buongiorno a tutti. Allora, vogliamo ricordare un pochino, prima di entrare nel dettaglio della vostra classifica dell'Eco Top 10 Auto, quali sono i principi ispiratori? Le emissioni di CO2, che è l'indicatore principale di consumo energetico, i gas inquinanti che tendono a penalizzare i motori diesel, che sono attualmente ancora i più inquinanti, e gli altri fattori ambientali, tra cui spicca il rumore, che ci assorda nelle nostre città quando siamo vicini a fonti di traffico. Quante auto avete preso in considerazione? Sono circa 850 i modelli dei 100 più conosciuti marchi che si commercializzano in Italia. Tutto ovviamente fa riferimento al 2009. E allora, raccontaci un pochino la classifica, cosa è venuto fuori dalle vostre analisi, chi ha vinto il premio di auto più verde del 2009? Le auto che si contraddistinguono per bassi consumi e contemporaneamente basse emissioni sono soprattutto le auto a benzina di piccole cilindrate e le auto ibride, le auto a metano, soprattutto quelle di piccole cilindrate. Più che guardare la classifica generale, che si trova tutto sul sito vivicostile.org, vi suggeriamo la classifica per categoria, perché sì, non è che uno, pur di prendersi un'auto che inquina poco, si prende una due posti e poi dopo non ci di cui non dentro ha bisogno, esatto. Oppure un'auto molto grossa o molto performante, come sono le ibride elettrico-benzina, no? Come la Toyota Prius, quella che ha vinto, ma subito dopo c'è anche la testa della classifica la Honda Civic, che ha prestazioni leggermente inferiori dal punto di vista ambientale, ma pressoché analoghe. Sempre in testa alla classifica, dicevamo, le micro e le piccole auto, spicca soprattutto nelle auto a metano, che sono tendenzialmente le meno inquinanti anche rispetto al GPL, se si guarda soltanto il combustibile che si usa, le auto della Fiat, la Grande Punto e la Panda, ma si difendono molto bene marchi specifici di auto di modello straniere. Attenzione, modelli specifici, perché molto spesso, per esempio tra i vertici della Toyota Igoo, ma un certo tipo di Toyota Igoo, la 1000 di cilindrata, perché? Perché tutti i modelli tendono a fare all'interno delle proprie segmenti, gamme, con il motore di diversa potenza o prestazioni, il modello più ecologico per la clientela che lo chiede, ma se si chiede genericamente il modello, non sempre si va sulla scelta migliore. Andrea, c'è un'auto, un marchio che vi ha particolarmente sorpreso in positivo o in negativo, magari rispetto anche all'immagine che dà di sé, o un modello che in qualche modo ha scardinato le previsioni, i preconcetti forse a volte? quello che è significativo è che anche i modelli che fino a poco tempo fa escludevano di avere dei prodotti per la sensibilità eco, quest'anno ci hanno provato in tutti i modi, come molte marche orientali, no? Non solo la Suzuki, ma la Daihatsu, la Subaru, la Mazda, eccetera, eccetera. Andrea, per concludere, il 2010 è un anno senza incentivi del governo, il mercato sta fatalmente pagando questo tipo di decisione e tra poco la analizzeremo nel dettaglio con i nostri ospiti. A te volevo chiedere qual è la posizione di Legambiente su questa assenza dal mercato di incentivi, soprattutto eco-incentivi che negli anni scorsi avevano contribuito a rinnovare, seppur parzialmente, il parco macchine italiano. Ma diciamo la verità, gli incentivi sono efficaci se sono erogati in maniera intelligente e sostanziosa in un periodo di rapido cambio tecnologico. Una volta che questo cambio tecnologico è avvenuto e il mercato si è già orientato su un'altra strada, non hanno più senso. Il difetto che hanno avuto gli incentivi auto in Italia sono stati che hanno avuto una scarsa caratterizzazione di carattere ambientale. Pensate per esempio che si sono inutilmente foraggiati, anzi direi erogati delle regalie pure a auto diesel non dotate di filtro antiparticolato e inquinanti, e contemporaneamente subito dopo si è deciso di non fare più niente. Una via di mezzo, no? E lasciamoci con questa domanda sospesa, con questi tre puntini che poi potrebbero aprire chissà quali altre valutazioni, anzi ci diamo appuntamento magari per una prossima occasione proprio per approfondire questo discorso. Noi nel frattempo ringraziamo Andrea Poggio, vice direttore generale di Legambiente, ospite di Strade e Motori. Buona domenica Andrea, a presto. Buona domenica a tutti. Il mercato dell'auto in aprile dunque ha fatto segnare un calo profondo rosso del 15,6% nel nostro paese, le immatricolazioni sono state poco meno di 160.000, nello stesso mese del 2009 furono più di 189.000 e le proiezioni parlano per il 2010 di un mercato da 1,6 milioni di immatricolazioni, forse 1,8 considerando la coda dello scorso anno, quello con gli incentivi. Ne parliamo con il direttore di Quattro Ruote, Mauro Tedeschini. Buona domenica direttore. Dica voi. Allora direttore, calo atteso, ne parliamo da tempo, ma i numeri sono ancora più crudi forse di quello che ci si immaginava. Beh, sicuramente, è vero che finiti gli incentivi con la coda appunto delle consegne possibili fino alla fine di marzo, il mercato sta andando indietro in maniera decisa, in realtà gli italiani pensano che gli incentivi torneranno e quindi sono in una posizione attendista, legata al fatto che poi le macchine di oggi in realtà si sostituiscono soprattutto perché c'è voglia di comprare qualcosa di nuovo, ma non perché non funzionino più, dato che ormai l'affidabilità è piuttosto dilatata nel tempo. E quindi si prevede un anno molto ma molto difficile, peraltro chi sperava che gli incentivi magari sarebbero arrivati nella seconda parte dell'anno, secondo me deve preoccuparsi anche del fatto che non avendo più un ministro dello sviluppo economico che è competente per questa materia, dopo le dimissioni di Scajola, la partita diventa ancora più difficile e il miraggio degli incentivi è ancora più lontano. Per invertire la tendenza, invece, le case costruttrici in questo momento cosa possono fare? Ma fanno un pochettino le solite cose, quindi stanno tornando le chilometri zero, cioè macchine nuove che vengono vendute al prezzo dell'usato dopo un'intestazione fittizia al concessionario, ovviamente spingono con tutte le formule, soprattutto di pagamenti dilazionati, vari tassi zero eccetera, però in realtà il problema è che c'è poca gente nei saloni e quindi se i clienti non vanno a vedere le macchine è difficile venderle. Il problema è anche che c'è stato un crollo vero e proprio dei veicoli, soprattutto a metano e GPL, che erano quelli più incentivati nel corso del 2009, e questo sta creando molti problemi non solo al costruttore nazionale, non solo agli stranieri che avevano messo nella loro gamma soprattutto macchine GPL, ma crea anche qualche problema ai grandi trasformatori che sono soprattutto italiani, che si chiamano Landi Renzi e BRC e che non sono più delle aziende artigianali ma sono delle industrie vere e proprie. È vero che ormai sono multinazionali, però l'Italia per questi nomi che ho detto è un mercato di riferimento molto importante. Ha sfiorato l'argomento, concentriamoci un pochino su Fiat, che tutto sommato tiene nell'ambito di questo crollo verticale che c'è stato per quanto riguarda ad aprile, o no? Beh, sì, anche se devo dire che soffre più del mercato proprio per il motivo che dicevo prima, ovvero che la Fiat nel corso del 2009 ha venduto più di 110.000 macchine a metano, soprattutto Panda, ma anche Punto e anche un pochettino di Multipla e di Doblò. Ora, il fatto di non avere più i maxi incentivi che c'erano l'anno scorso ovviamente sta penalizzando molto il costruttore nazionale, che infatti in termini di quota è sceso. Questo ovviamente porterà a una discesa anche della sua quota in Europa dopo alcuni anni di crescita continua. La Fiat soffre anche per il fatto che viene da un periodo in cui ha un pochettino congelato gli investimenti sui modelli nuovi in attesa di decidere il piano prodotto, che poi è stato finalmente sbloccato da Marchionne nelle settimane scorse insieme con la Chrysler, e quindi non sarà soprattutto in Italia un anno facile per la Fiat, anche se devo dire che poi il costruttore italiano si consola con i dati che arrivano da oltreoceano, perché sta andando molto bene il Brasile come Fiat e comincia ad andare benino anche gli Stati Uniti per quello che riguarda la Chrysler, che è il paziente che Marchionne si è preso per le mani e che non è sicuramente un paziente facile. Direttore, per concludere, dal punto di vista del prodotto, siamo a metà maggio, quali sono le uscite più interessanti da qui all'estate, diciamo, che potrebbero in qualche modo stuzzicare i possibili acquirenti in questo momento? Ma secondo me, dopo la Giulietta, che è stata sicuramente la novità della primavera, anche se ancora non c'è stato il porta aperte, quindi l'impatto con i clienti non c'è stato, ci sarà, io credo, verso la fine del mese di maggio. Secondo il mio parere, un lancio molto significativo e che vedo sta riscuotendo molto interesse è questa Dacia Duster, cioè un SUV da 11.700 euro. Che è importante non solo appunto per la macchina in sé, ma perché l'interesse che sta riscuotendo dimostra che secondo me nei prossimi anni potremo assistere a un'ondata di modelli di prezzo basso o bassissimo, e quindi a un riposizionamento complessivo di tutta l'offerta di mercato. Cioè, gli acquirenti evidentemente pensano che le macchine oggi siano troppo care rispetto al potere d'acquisto che c'è in giro, e chi sarà in grado appunto di offrire dei primi prezzi molto significativi secondo me potrà rosicchiare quote di mercato alla concorrenza, appunto puntando su dei modelli molto più spartani rispetto a quelli che abbiamo avuto negli ultimi anni. E quindi, mentre negli ultimi anni si tendeva ad aggiungere sempre più accessori e congegni elettronici anche negli allestimenti base, io credo che in futuro andremo nella direzione opposta, e quindi si tenderà molto ad alleggerire e offrire dei modelli veramente essenziali per raggiungere dei prezzi molto più competitivi rispetto a quelli di oggi. Importante però che low cost non vuol dire meno sicurezza. Ecco, questo è ovviamente un tasto molto ma molto importante, ma questo credo che ormai sia un prerequisito, per cui le macchine che non hanno sicurezza assolutamente non vengono neanche prese in considerazione. Questo è anche il motivo per il quale alcuni modelli cinesi che sembravano in arrivo imminente in realtà sono stati rimandati, proprio perché nei crash test hanno dato dei risultati poco confortanti e quindi tali da non renderli presentabili sul mercato europeo. Noi ringraziamo Mauro Tedeschini, direttore di Quattro Ruote. Buona domenica, direttore, buon lavoro e alla prossima. Grazie, buona domenica a voi. Strade e motori. Strade e motori. La seconda parte di Strade e motori dopo gli aggiornamenti sul traffico. Tra poco vi facciamo pregustare un pochino i ritmi e i climi estivi, se avete voglia di cominciare ad organizzare un viaggio in Sardegna o in Corsica, ma parliamo adesso di navigazione satellitare. Da optional ad accessorio obbligato in tutte le nostre auto, il navigatore satellitare è ormai un nostro compagno di viaggio abituale. Da esattamente 10 anni, pensate, il segnale GPS, cioè quello che guida i navigatori, è stato reso utilizzabile per l'utilizzo civile e non più soltanto militare. Ed è il caso di dire, in 10 anni il navigatore satellitare di strada ne ha fatta parecchia. C'è un'azienda totalmente italiana, Made in Italy, che da anni è sul mercato, e noi abbiamo ospite l'amministratore delegato di questa azienda, che si chiama Avi Map, ed è in linea con noi Simone Lazzarini. Buona domenica Lazzarini, grazie per averci raggiunto. Buona domenica a lei. Cosa cerca l'utente che oggi si reca in un negozio e va a acquistare un navigatore per auto? Allora, ci sono 3 tipologie di utenti, per quello che abbiamo identificato. C'è l'utente che cerca esclusivamente il prezzo più basso, l'utente che cerca il prodotto che sia esteticamente gradevole, quindi che cerca di solito il massimo dell'integrazione in auto, e poi c'è molti utenti divisi in varie nicchie di mercato che cercano dei navigatori che possano soddisfare le loro esigenze, facciamo un esempio i camperisti o chi va spesso in fuoristrada. I navigatori oggi sono ormai decisamente evoluti, il mercato è maturo, quindi anche i navigatori a poco prezzo offrono delle prestazioni soddisfacenti per chi non ha particolari esigenze, e pensiamo soprattutto che la seconda categoria, cioè quella degli utenti esigenti, sia destinata a rientrare in automobile, quindi si ripasserà dal navigatore portatile verso un navigatore integrato nell'auto, in vari modi che stanno pian piano venendo fuori. A proposito di integrazione, questa convergenza con i telefoni cellulari, con i lettori musicali MP3, con addirittura anche la televisione, per voi produttori è un'opportunità, è una sfida, è una maggiore difficoltà? Come la valutate? Beh, è sicuramente un'opportunità, e in questo momento questa convergenza, secondo me potremmo chiamarla anche confusione volendo, perché vediamo dei telefoni cellulari che fanno da navigatori, dei navigatori che funzionano come telefoni cellulari, sia i navigatori che i telefoni cellulari che sono in grado di far vedere la televisione, quindi sembra che nel mercato non sia ancora chiaro chi deve fare che cosa, e non penso, questa è la mia opinione, non penso che ci sarà un prodotto perfetto, quindi non penso che la destinazione di questa convergenza sia un unico prodotto che sia poi in grado di fare tutto. Senta, l'altro problema che viene così sotto gli occhi di tutti nel momento in cui si acquista e si utilizza con continuità un navigatore satellitare riguarda l'aggiornamento delle cartine. Spesso e volentieri, ad esempio, i nomi delle strade non sono aggiornati, c'è difficoltà nel trovare il punto di arrivo. Ecco, è un problema che vi ponete anche voi produttori? Quali sono le soluzioni che oggi adottate maggiormente? Sì, questo è sempre stato un problema dei navigatori satellitari. Oggi i due principali produttori di mappe, quindi dati cartografici, che sono Teleatlas e Navtech, offrono entrambi 4 aggiornamenti annuali. Non penso che sia necessario installare tutti e 4, ma sicuramente almeno una volta l'anno è opportuno aggiornare il navigatore. La soluzione ideale sarebbe che questo navigatore fosse capace di auto-aggiornarsi. Oggi questo non è ancora possibile, perché le mappe sono dei file piuttosto grandi, ma sarà possibile nel prossimo futuro, di questo ne sono assolutamente certo, quando si potranno fare degli aggiornamenti che noi chiamiamo incrementali delle mappe, ovvero aggiornare solamente quei dati che sono cambiati. Certo, avere informazioni aggiornate significa anche aiutare poi l'automobilista nella guida, e significa anche aumentare il livello di sicurezza stradale. Ecco, come può un navigatore aiutare la sicurezza stradale secondo lei? Questo è un argomento molto interessante ed è un argomento estremamente attuale, perché proprio per la maturità raggiunta dai sistemi di navigazione tradizionali ci stiamo tutti noi produttori spingendo nel cercare nuove funzioni che possano aiutare la sicurezza di chi è alla guida. In particolare noi come WMAP abbiamo appena partecipato a un progetto di ricerca che si chiama proprio Safe Rider, ed era un progetto il cui obiettivo era capire come un navigatore può aiutare, in questo caso un motociclista, nella sua guida. E questo aiuto deriva principalmente da alcuni dati che sono proprio nella cartografia, che, per farle un esempio, riportano la pericolosità di una curva. Quindi quando si affronta una curva in moto, questo è molto importante, il navigatore può informare se stiamo andando troppo veloci, anche in base alle condizioni stradali, quindi se piove, se non piove, queste ci sono le informazioni meteo in tempo reale, e quindi può avvertire prima il guidatore che è necessario rallentare per affrontare quella curva o quell'incrocio perché è particolarmente pericoloso, eccetera. E noi la ringraziamo Simone Lazzarini, amministratore delegato di AVMAP, ospite di Strade e Motori. Buona domenica, buon lavoro e a presto. Buona domenica a lei, grazie. Siamo quasi a metà maggio, tempo per tanti di cominciare ad organizzare le proprie vacanze, le proprie ferie estive, e molti dei nostri ascoltatori magari in questo momento stanno provando ad immaginare se e come organizzare le proprie vacanze avendo come meta la Sardegna o la Corsica. Dunque importante la scelta del mezzo di trasporto per arrivare in quei posti. Oggi proviamo a darvi una mano cercando di sapere quali sono le caratteristiche, ad esempio, per organizzare nella maniera migliore un viaggio in traghetto, in nave. È per questo che abbiamo già in linea Ermanno Sereni, che è responsabile commerciale Nord Italia di Corsica e Sardegna Ferries, uno dei principali vettori che uniscono Corsica, Sardegna con l'Italia, ma non solo. Buona domenica Sereni, grazie per averci raggiunto innanzitutto. Buona domenica a voi. È il momento giusto questo per cominciare a pensare alle proprie vacanze? Immaginiamo di sì, anche perché poi se ci si riduce all'ultimo istante è più complicato trovare la data giusta, no? Per il proprio viaggio. Sì, bisogna cominciare da subito, anche perché oggi sta cambiando notevolmente un discorso di tendenza. Oggi non è più un problema di disponibilità di posti, ma è un concetto di disponibilità di tariffa, perlomeno. Per cui è chiaro che prima ci si appronta a verificare le disponibilità verso le proprie vacanze, e meglio si riesce a trovare delle tariffe estremamente convenienti. Ecco, ecco, ad esempio, immaginiamo un viaggiatore, un turista che voglia con la propria auto andare in Corsica o Sardegna. Se si muove in questo momento, che tipo di offerta commerciale può trovare? A partire da delle offerte, per esempio per la Corsica, 24 euro un adulto, un'auto, tasse incluse, per cui una tariffa molto interessante, oppure per la Sardegna addirittura 20 euro un adulto e un'auto, tasse incluse. È chiaro che sono pacchetti che si possono trovare tranquillamente in tutti i periodi. Va intelligentemente ricercato il periodo interessato per la propria partenza. Anche perché immaginiamo per agosto ci sarà meno disponibilità rispetto a giugno e luglio, o almeno tradizionalmente era così, è ancora così adesso, o stanno cambiando le vacanze degli italiani da questo punto di vista? Ma stanno un po' cambiando, per cui tradizionalmente era ad agosto e in parte, diciamo, lo rimane, però comunque stiamo vedendo che la tendenza, fortunatamente, si sta allargando a luglio e anche a giugno, e non solo, ma anche a settembre. Per cui questo è abbastanza importante, soprattutto per queste destinazioni, che il principio fondamentale è quello che anche di allargare le stagionalità. Ecco. Quali sono le vostre tratte più utilizzate? Beh, iniziando dalla Corsica, noi colleghiamo sia dalla Francia, Tolone e Nizza, che dall'Italia, Savona e Livorno. Ecco, sulla Corsica addirittura abbiamo una disponibilità di 28 corse giornaliere e arriviamo fino a 32 corse giornaliere per quanto riguarda il periodo estivo. Noi sulla Corsica colleghiamo Bastia, Calvi, Irrus ed Ajaccio, mentre per quanto riguarda la Sardegna partiamo da Livorno e Civitavecchia verso Golfo Aranci, che ormai adesso è conosciuto. Una volta era un posto un po' sconosciuto, sì, invece un porto, sì, molto importante, una località che fra le altre cose si sta rilanciando anche dal punto di vista turistico, e ne ha ben d'onde. E lo colleghiamo con 6 corse giornaliere. Per concludere, Sereni, la Sardegna e Corsica sono sempre, anche qui, tradizionalmente le mete preferite per chi viaggia in camper o roulotte e soprattutto le moto. Anche quest'anno immaginate che ci sarà parecchia richiesta per i camperisti e i motociclisti? Ma intanto ce lo auguriamo, questo assolutamente sì. Fra le altre cose, noi abbiamo una novità molto importante quest'anno, che è la possibilità per i camperisti e roulottisti. Abbiamo un'offerta molto interessante, che è il famoso camping on board, cioè la possibilità di soggiornare sul proprio camper o sulla propria roulotte nell'ambito della traversata. Questo noi lo facciamo con questa nostra compagnia, che è una compagnia di trasporto, si chiama Strade Blu, e sulla linea per il momento solo Livorno a Olbia, fra le altre cose arriva a Olbia, con 3 operativi settimanali in andata, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e 3 operativi di ritorno, il martedì, giovedì e domenica. Questa è una possibilità che c'era stata ampiamente richiesta da questo segmento di mercato, per avere la possibilità di utilizzare anche nel viaggio il proprio camper. E anche noi da quest'anno lo possiamo offrire, a partire da 65 euro per un camper di 7 metri e a 24 euro per un adulto, tasse incluse. Noi ringraziamo Ermanno Sereni, responsabile commerciale Nord Italia di Corsica e Sardinia Ferris, che ci ha un po' illustrato anche l'offerta commerciale di Corsica e Sardinia Ferris per i prossimi mesi. Buona domenica e buon lavoro, a presto Sereni. Siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento con Strade e Motori. Grazie per aver viaggiato con noi, grazie a Peter Bescapè per averci guidato in regia. Su radio24.it tutte le interviste e gli approfondimenti da riascoltare quando volete. Da Massimo Di Scienza l'augurio di una buona settimana a tutti. A domenica prossima.